Sei salita sul mio cuore senza obliterare. Ti ho scattato una foto ed è venuta male. Anche se so come ti sta il mio sorriso addosso, che senza filtro fa lo stesso effetto. Andiamo dritti fino alla centrale, nessun riparo sotto il temporale. Tanto lo sai come si sta quando non chiedi aiuto, ma noi balliamo anche sotto il diluvio universale. L'amore non ha mai una legge universale, lo sai il linguaggio della pelle universale. Non si può spiegare come la fine di Marilyn, quella di un film universale. Anche se il tempo passa e non lo puoi fermare, noi due a mezz'aria con il mondo che scompare. Non si può spiegare come per l'anima o il DNA. Ho letto che il pericolo più grande è non rischiare, ma se mi guardi con quegli occhi rischio di affondare. Tanto lo so come si sta in mezzo a questo mare, SOS vienimi a salvare. E se il futuro ci farà tremare, e se il destino cambierà le strade. Tanto lo sai come si sta anche se chiedi aiuto, balliamo ancora sotto ogni diluvio universale. L'amore non ha mai una legge universale, lo sai il linguaggio della pelle universale. Non si può spiegare come la fine di Marilyn, quella di un film universale. Anche se il tempo passa e non lo puoi fermare, noi due a mezz'aria con il mondo che scompare. Non si può spiegare come per l'anima o il DNA. Come le luci spente dopo mezzanotte, come la prima vera notte con te, come la stella polare, le zanzare in estate. Universale, universale, e questo vento non ci può spostare. Stringimi forte sotto il temporale. Tanto lo sai come si sta quando non chiedi aiuto, ma noi balliamo anche sotto il diluvio universale. L'amore